Propongo che ci siano anche dei bordelli, come vengono chiamati, per le donne. Perché noi donne, ci sono delle donne che hanno delle esigenze come degli uomini. Perché noi donne no e loro sì? La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Non ascoltate mai il podcast della Zanzara prima di una riunione di lavoro, se ci tenete al vostro posto, perché appena il capo dirà una cazzata, voi sarete lì a guardarlo negli occhi e a dirgli: ma di che stiamo parlando? Ma stiamo parlando dello zero assoluto? Ma non gliene frega un cazzo a nessuno. Il vostro capo ribatterà e voi gli direte: ma vai a fare in culo. E mentre i vostri colleghi vi guarderanno attoniti, nel silenzio della sala riunioni, voi urlerete: traffico! Ragazzi, è veramente troppo facile oggi, cioè non c'è gusto, capito? Quando succedono queste cose qui non c'è nemmeno il gusto del confronto, non c'è nemmeno il gusto dello scontro dialettico, della difficoltà di battere qualcuno nel confronto radiofonico. Non c'è gusto, non c'è partita, capito? Allora, cosa è successo nei giorni scorsi, caro Parenzo? Forse tu te lo sei dimenticato. Sì, forse. C'era un'oasi naturale dalle parti di Venezia, Spinea, se non sbaglio. Come no? Spinea, certo. In cui sono stati ammazzati, sono stati rinvenuti morti, diciamo così, un centinaio di bestie, le più svariate, in questa oasi naturale, no? Come sai, la passionaria vegana signora Martani, ieri ospite qui alla Zanzara, dove ne ha dette di cotte e di crude, la signora Martani ha detto che io sarei il mandante morale, sì, di questa strage compiuta ovviamente da uomini. Giusto anche questo. Sì. No, no, giusto un cazzo, giusto che cosa? Scusami. È giusto quello che ho detto, sì, corretto quello che ho detto. Corretto. La ricostruzione. Giusto. Signora Martani ha detto questa cosa qui. Signora Martani. Signora Martani. Un'apertura. Ha detto semplicemente che queste uccisioni sono il frutto della mia campagna d'odio contro gli animalisti. Giusto, ci sta anche questo. Il signore che governa quest'oasi, chiamasi Piva, non Pivenezza, signor Piva, un signore che governa quest'oasi naturale, ha parlato addirittura di un atto disumano. Ma sentiamolo, dai, sentiamolo. Qualche giorno fa hanno finito il lavoro questa notte, sono tornati. Questa è una minaccia vera e propria, questa è mafia. Hanno voluto finire il lavoro. Ditemi se questa è l'opera di un animale, ditemi se questi sono umani. E solo chi odiava i porcellini l'ha fatto e se l'è presa con loro. Gli uomini cattivi, gli esseri umani cattivi che hanno ammazzato gli animali, la mafia, un messaggio mafioso. Sai che cosa si è scoperto, Parenzo? No, ma è troppo facile, capito? È inutile, perché è veramente facile in questo caso, dunque non c'è nemmeno gusto. Pare sia stata una volpe. Una volpe. Ti giuro, una volpe. Non ho nemmeno goduto oggi quando l'ho saputo, perché non si può godere della morte degli animali, no? Strage, cioè, è stata la natura, una volpe. C'è un animale che ha ammazzato un altro centinaio di animali. L'animale indifeso, l'animale sempre buono. Strage, orrore all'Osi Parco di Spinea. È stata una volpe. Il referto dell'Istituto Zooprofilattico di Legnano cancella l'ipotesi di vendetta o vandalismo contro i 130 animaletti trovati uccisi. Nessun vandalo, nessun rito satanico, nessun, ma guarda, essere umano. Parla la volpe. Taormina, porteremo la volpe in tribunale, guarda, una cosa vergognosa è stata. Guarda, quella volpe lì non mi piace, ha fatto una strage, credi, altro che Duisburg, altro che mafia, la volpe, è stata lei, è stata anche a Cogne probabilmente, è stata la volpe. lo dico. Cioè, magari adesso se non usciranno che l'ho mandata io, il mandante. Sono stato io. Ho spedito io la volpe. Ma anche nel caso a Tinori è stata la volpe a fare tutto, è chiaro. Martani, dovresti sotterrarti, metterti sotto un mattone, metterti sotto terra, dici vabbè. Oppure chiedere umilmente scusa. Guarda, ti chiedo umilmente scusa. Così poco, ti chiedo umilmente scusa. La volpe è stupendo, non me l'aspettavo, devo dire la verità. Vincere così facile non me l'aspettavo, Vabbè, chi vogliamo parlare? Di Firenze? Ragazzi, che dobbiamo dire di Firenze? Allora, c'è qualcuno che se la prende con Renzi. Adesso, per carità, sono due giorni consecutivi che difendo Renzi, ma Se è Nardella, semmai che no, ma sì, ma no, Piero Pelù, senti Piero Pelù, no? L'amico Piero Pelù, grandissimo, eterno, mitologico. Dissesto idrogeologico nel cuore di Firenze a Ponte Vecchio. La merce di scambio preferita del renzismo più becero, ma tanto a Firenze buca più, buca meno. Adesso, cosa c'entra un tubo rotto, forse un errore umano? Sicuramente le città italiane sono amministrate di merda. Un tubo rotto che fa arrivare Firenze in tutto il mondo, sì, con l'Arno che crolla, no, un argine dell'Arno che crolla, con le macchine inghiottite, sembra di tornare alla, no, all'inondazione degli anni 60, sembra veramente una cosa incredibile. Ma in tutto questo il renzismo cosa cazzo c'entra? Alcuni dei 5 Stelle dicono: questa è la responsabilità delle privatizzazioni di Renzi, del comune di Firenze. Ragazzi, io veramente divento pazzo, guarda. È vero una cosa. Mi segnalano amici che in caso contrario, cioè fosse successo in una città governata dai 5 Stelle, alcuni del PD avrebbero detto: ecco il malgoverno dei 5 Stelle, ecco il malgoverno della città, eccetera, eccetera. Ruvo di Puglia, Ruvo di Puglia, un candidato dal palco si esprime in questo modo. Sentiamo. Perché noi abbiamo la capacità di fare mea culpa e di anteporre quelle che sono le questioni personali agli interessi di un'intera collettività. Anteporre gli interessi personali. Anteporre gli interessi personali, gli interessi della collettività. E poi mea culpa, non si diceva mea culpa una volta? Mea culpa, certo. Mea culpa. Però forse lì si usa così, non lo so. Dai, magari. Com'è che si chiama questo qua? Com'è che si chiama? Paparella, Paparella mi segna. Signor Paparella, candidato. Paparesta del... conosco io. No, Paparesta è l'arbitro che c'entra. Appunto, Paparella. Quello, ragazzi, Paparella. Su, dai. E dai. No, però vogliamo dimenticarci quello che ci ha detto ieri Le Martani sul cancro a Cecchini, il macellaio Cecchini. Ha detto che praticamente si è presa un cancro e pare che la cosa sia nota, cioè lui ha avuto un cancro alla prostata, in un'intervista l'ha anche detto, per colpa della carne, perché mangia carne dalla mattina alla sera. Ragazzi, io vado ai matti, non volevo tornare sulle questioni vegane, però vedo che vanno sempre più di moda, le televisioni riempiono i palinsesti facendo trasmissioni e trasmissioni spesso anche ripetitive sulla questione vegani versus carnivori. Sai che non vorrei più andare a una di queste trasmissioni, mi sono veramente rotti i coglioni. No, l'amico Teresi mi ha invitato la prossima settimana ad andare di nuovo a Matrix a parlare di questa cosa qua. Ha detto: caro Luca, io ti voglio bene e tutto, però inventate qualcosa di nuovo, no, ma anche su questa cosa qua, ma qualcosa di nuovo, dei particolari, dei dettagli nuovi, dei pazzi nuovi, altrimenti ripetiamo sempre le stesse cose. Adesso invece la Martani ha detto che praticamente il macellaio Cecchini, che anni fa si operò di prostata, si è preso questo cancro per colpa della carne. Ma che ne sai? Ma gliel'abbiamo detto ieri, che cazzo? Ma il signor Cecchini l'ha detto che lui ha avuto un tumore e l'hanno ripreso per i capelli? Lo sapevate questa cosa? E che c'entra, scusa, non ho capito. C'entra, perché il signor Cecchini, che si mangia carne dalla mattina alla sera, ha rischiato di morire e l'hanno ripreso veramente per i capelli. Questa cosa lui non la dice, chiaramente non la pubblicizza, ve lo dico io. Ma non la pubblicizza semplicemente perché si fa i cazzi zone. Uno dice: io ho avuto il cancro alla prostata. Ho avuto. Ma semplicemente per questo, no, non per altro, Brunetta Show. Senti Brunetta, ti prego. E io ho paura del regime. Guardi. Il regime che caccia via lei dalla televisione. Non apriamo questa polemica. No. Faccio così, guardi, va bene. Guardi, non c'è niente di cui discutere su questo. Io Cioè, tu ti rendi conto del cortocircuito, no? Cioè, il regime è talmente forte che Brunetta parla di regime in una trasmissione che in teoria dovrebbe essere chiusa dal regime renziano. Ma ti rendi conto o no, no della ma follia? È incredibile, no. Ma ragazzi, dai, su. Brunetta, è incredibile, Renatone Brunetta, no. Che si mette a difendere e quello non vuole essere difeso, e quello non vuole essere difeso, no, peraltro, da Brunetta. Quello per signori Litali, dai, su, ritorna sul premio Nobel, Brunetta. Senti, ritorna sul premio Nobel. Certo, il Nobel in Svezia, anche in Norvegia, in Scandinavia, in Normandia, ovunque. Renzi se l'è presa con me, ha detto fronte del no, guidato da un mancato premio Nobel, che sarei io. Sì. Beh, io sono onorato di essere un mancato premio Nobel. Ma io ho lavorato e ho studiato, ho fatto 40 anni di professore universitario, forse vedevo dalla lontana il premio Nobel, poi non è arrivato. Lui non ha mai lavorato in vita sua. Napolitano ha definito la Lega partito xenofobo. Salvini si incazza. Salvini si incazza. Ci sta, ci sta. Fermi tutti, adesso arriva, fermi. Io e la mia ragazza ormai, lei in Italia, io in Lituania, quando ci salutiamo non ci diciamo più quelle stronzate come rimani, ti amo, ti voglio bene, ti penso tanto, sogni d'oro, buonanotte amore e puttanate fine, ma ci diciamo soltanto traffico e ci capiamo. La Zanzara. Ma chiedere scusa di che? Di uno che ha rappresentato indegnamente gli italiani e che definisce xenofobi e razzisti milioni di italiani che chiedono rispetto delle regole? È lui che si dovrebbe vergognare, dovrebbe farsi da parte perché di danni ne ha fatti abbastanza. Allora, il giorno prima Salvini aveva definito Napolitano da ricovero. Pazzesco, da ricovero. Vabbè, è pazzesco, ci no, sta, vabbè, dai, ma su. Sì, ci sta, ma non si può criticare Napolitano per quello che dice. Non si può criticare Napolitano. Nella Zanzara ci non sta. Si può, vabbè, non si sta. Può criticare Napolitano per ma quello che dice. Ma cavaltro che gli dicesse vecchio rintronato e lì, boh, sì, è normale che uno gli dica, ma ragazzi miei. Vai con Angelo da Brescia, vai Angelo. Ciao ragazzi, dimmi. Tu stasera difendi Renzi in questi giorni no, ragazzi, difendo Renzi. Basta, io ho detto ma in no, questi giorni è una polemica inutile, non volevo semplicemente fare una. Dove sei? In viva voce? Come sei messo? No, non sono in viva voce, sono chiuso in un posto. Purtroppo il problema è questo, vai dimmi. Semplicemente questa cosa, molto, molto seria. Perché è chiuso in un posto questo? Ma che ne so perché è chiuso in un posto? No, dove sei? In ospedale? Nell'armadio sei? No, non sono in ospedale. Perché è tornato il marito, tu sei l'amante chiuso nell'armadio. Sto lavorando, al contrario vostro, sto lavorando. No, noi pure lavoriamo a modo nostro lavoriamo. Modo. Che cazzo, che lavoro fai? Scusa. Angelo, che lavoro fai? Lavoro in una comunità psichiatrica. Va bene. Ma ha a che fare con la Zanzara questo qua? Ha a che fare con la Zanzara, secondo allora, me? Allora, voi siete la Zanzara, rompete i coglioni. Stasera ve li voglio rompere un po' io i coglioni. Perché? Che è successo? Perché che è successo? Succede questa cosa. Quando chiama qualcuno e spara idiozie, la dovete smettere di dire chiamiamo l'ambulanza, ha bisogno del TSO. A parte che è da tempo che non utilizziamo questa espressione, che ci siamo rotti i coglioni. Esatto, avete ragione, all'onore del vero, allora? Esattamente così. È un reinvito, perché guardate che dietro la malattia mentale, sapete che... Vabbè Angelo, però è una polemica vecchia, sinceramente, se ci hai chiamato alle 18.50 per dirci che non dobbiamo più utilizzare chiama l'ambulanza, ci hai rotto veramente già i coglioni dopo un minuto di intervento, con tutto rispetto per il tuo lavoro. Avete fatto la Zanzara, bravissimi. Permettete, la faccio anch'io, vi ho rotto i coglioni anch'io. Ma non c'hai rotto i coglioni, hai fatto un intervento inutile, hai fatto perdere tempo. Ci hai fatto perdere tempo, ci hai fatto perdere il tempo. Ci hai fatto perdere tempo. Se hai voluto ascoltarmi, ti dico che non ti ho fatto ci hai fatto perdere tempo e ci hai, come si dice in siciliano, scassato la minchia. Perché non utilizziamo più le... Ma non stai facendo nessuna Zanzara, ci hai fatto perdere un minuto e mezzo. Chiudiamola qui, ragazzi, evitate ancora questi commenti. Vabbè, arrivederci Angelo. Hai fatto perdere tempo. Se potete cambiate anche vai, lavoro. Vai, ragazzi. Vai, ciao, show, ciao, cambia ciao. Lavoro sto cambia lavoro tu, va. Marta Milano, vai Marta, dimmi. Salve. Allora, Non sono vegetariana, mangio carne, sì. Però vorrei comunicare questa cosa. Dimmi. È abbastanza risaputo che le carni rosse contengono un tipo di grasso che si chiama omega 6 che attiva i processi infiammatori, dunque? Quindi anche le forme tumorali. Vanno mangiate con moderazione, dunque? Con ragion veduta. Io personalmente mangio più le carni rosse. Vabbè, anche qua ci stai dicendo, una cosa ovvia, bisogna mangiare non tantissima carne. Esatto. Vabbè, grazie. Grazie del consiglio a 18:52. Francesco da Palermo. Cioè, veramente, stasera mi hanno rotto i coglioni due persone. Già le prime due interventi già mi hanno rotto il cazzo. Francesco da Palermo, dai. Nazi carnivoro con orgoglio. Beh, oggi abbiamo un nuovo iscritto, la Volpe. Beh, la Volpe pare che si aggirasse davanti all'Osi di Spinea in provincia di che era Venezia, se non sbaglio, Venezia, con la maglietta della Zanzara. Sembra, così sembra. Con indosso la maglietta della Zanzara faceva strage di animali. Bellissimo, vabbè. Bellissimo. Francesco, bellissimo. Vai, dimmi. Comunque mi volevo riallacciare al commento ieri sera di Parenzo, quando a quel povero uomo comunque che va in Austria una volta al mese a divertirsi con le puttane. Beh, il mitologico ormai è diventato un mito della Zanzara, lo riproporremo assolutamente. Una persona veramente brutta. Signor Carmine da Milano, ma che molto brutta. Il numero uno, una brutta persona. Ma che brutta persona. Ma a prescindere questa, dai. Parenzo, ascolta, le puttane esistono da più di 3.000 anni. Chi ci va esiste da più di 3.000 anni. E cosa c'entra? Tanto quanto esiste una cosa che pratichi pure tu, che è la circoncisione. Dico, ora, potrebbe cosa essere... Cosa c'entra la circoncisione con la prostituzione? No, sta dicendo che è antica quanto la circoncisione. È antica quanto la circoncisione. Ma questo è pazzo. No, ha ragione. Alcune cose, ma non c'entra nulla. Tu fai delle minchiate, ma che dici? Ma la prostituzione di per sé non è un reato, lo sfruttamento è un reato, l'ho detto fino allo sfinimento. Ma guarda, credimi che se dovessero regolarizzare la prostituzione, lo farebbero tutti ugualmente, nessuno si ritira. Va bene, infatti. Perché guadagnano. Ad oggi sono tantissime le donne costrette a prostituirsi e quindi io considero di conseguenza per la proprietà transitiva miserabili. Da Ciro, come si chiama quello di Catà? Ciro, Carmine, vabbè, ma Carmine. Abbiamo già detto questa cosa. Paola da Venezia, dai, Paola, ecco. Vai. Allora, pronto, buongiorno. Sì. Senta, io telefono da Venezia, mi chiamo Paola. Vuole fare un ordine? Possiamo fare un ordine col macello. No, voglio solo dire una cosa, un'informazione se possibile. Ho sentito che Brunetta, parlando così in un breve intervento alla Zanzara, ha detto che lui è stato candidato al premio Nobel. Esatto, quindi, ecco, io volevo solo avere le informazioni in che cosa è stato candidato. Perché, economia, insomma, premio Nobel per l'economia, naturalmente. Per l'economia? Beh, certo, perché cosa? Scusi, allora continueremo a ridere ancora per un bel po'. Grazie e complimenti a tutti e due. Grazie. Sì, Paola. Per carità, assolutamente sì. Cioè, voleva rimarcare che era ridicolo candidarlo al premio Nobel per l'economia. Giorgio da Varese, vai Giorgio, vai. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vai, veloce. Io vai. Chiamo perché ieri sera il signor Parenzo, secondo me, sulla questione di donna assunta, l'ha trattata veramente come non si dovrebbe mai trattare. Ragazzi, anziano. Perché? Che è successo? Ma a noi non ce ne frega nulla se uno è anziano o non anziano. Per la persona anziana rimane. Vuol dire, cioè, ma che ci frega a noi? Una persona parla, non me ne frega niente se ha 90 anni, se ne ha 20. Ho capito, però il rispetto va portato alle persone, qualsiasi cosa dica e può essere anche contrario alle sue idee, porca miseria. Come lei sa, in questa trasmissione il rispetto assume forme e contorni piuttosto diversi rispetto alla normalità. La parola rispetto. Ciao. Io il coniglio me lo porto a casa e me lo magno dopo averlo ammazzato, altro che soccorre. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10:30 con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Vicinissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. La Zanzara. Siamo al top quando faccio metano e sto col volume a 18 e il benzinaio, mentre gli do i soldi, mi dice: ah ragazzi, ma che stai ascoltando, la Zanzara? Beh, siamo veramente al top assoluto. Allora ragazzi, vi voglio raccontare una storia incredibile che fa parte della categoria molto chiara, da me definita, non dei nazi vegani ma degli animalati. Allora, cosa succede? C'è una città, chiamasi Teramo. Beh, in Abruzzo, sì, città che ha dato anche i natali, se non sbaglio, al signor Pannella, no? Vero. In questa città o nei dintorni fa la guardia cinofila, che credo che sia una specie di corpo della provincia, già defunta provincia di Teramo, guardia cinofila. Una signora che si chiama Rita Cipriani. Tu dici, che cazzo c'entra? Chi è questa gente? Per dirlo, ma di cosa stiamo parlando? Eccetera. Esattamente. Succede una cosa molto semplice, una cosa che credo possa accadere in qualsiasi parte d'Italia. C'è una signora, in questo caso, che con la macchina investe un cane, un pastore tedesco, che si chiama Laika, anche questo nome non particolarmente originale. Laika, questo non c'entra nulla, ovviamente. Il cane della mia zia si chiamava Laika. Vabbè, sti cazzi, uno potrebbe aggiungere. Questa macchina, probabilmente la signora non sentiva, non credo che abbia la cattiveria di non aver prestato soccorso a questo animale. Comunque, ci sono in corso delle indagini. Questo animale viene trascinato perché si incastra tra la ruota e il paraurti, insomma una roba terribile, no? A un certo punto questa signora si ferma e l'animale è morto perché è stato trascinato per circa un chilometro. Interviene questa Rita Cipriani, guardia cinofila. Tu mi starai chiedendo, ma di cosa stai parlando? Perché non parli osavo dell'investimento di un cane in una provincia italiana? Un fatto, diciamo, che noi non ci auguriamo mai, per carità, però abbastanza comune, una cosa che può accadere. E no, amico mio, perché trattasi di un personaggio sui generis, questa Rita Cipriani. È una specie di animalista, di animalata, diciamo la verità. Scrive il resoconto di quello che è accaduto. Lei che arriva lì trova la signora colpevole di questa roba qui e addirittura avrebbe la tentazione di spingerla sotto un treno. Ha la tentazione di spingerla sotto un treno e chiude tutto il racconto in questo modo: ti vendicheremo, dolce angelo, riferito a Laika, ti vendicheremo. Non la passerà liscia questa pazza, te lo prometto. Boh. Allora, amici miei, per farvi capire a che punto di malattia è arrivato l'animalismo più estremo, vi propongo questa telefonata alla signora Cipriani, raggiunta da un'associazione. Come cazzo l'abbiamo chiamata? Vabbè, sentirete, non vi preoccupate, sentirete. Raggiunta da una telefonata di un militante di un'associazione animalista, di un'associazione fronte animalista o giù di lì, la quale dice cosa farebbe a questa signora colpevole di aver investito Laika e di aver ucciso Laika. Sentite gli animalati. Pronto? Sì, buonasera, parlo con la signora Rita Cipriani. Sono il presidente del Movimento Giustizia Animale, non so se ne ha sentito parlare. Sì. Io ho letto con deciso orrore di quanto è successo a quel povero pastore tedesco a Teramo, Laika. E vista che questa delinquente, dopo aver assassinato questa innocente bestiola, così ha mostrato di fregarsene in sostanza dell'accaduto, abbiamo deciso col nostro movimento di fare una spedizione punitiva e volevamo chiederle se ci dà un aiuto. Mi chiamano una terrorista, però questa signora io la voglio vedere sul banco degli imputati. Sì, omicidio. Sì, puoi sì. Dargli una rotta addosso? Come si suol dire qui da noi. Io sono un tipo che mi faccio giustizia da solo. Ha detto prima, se ho capito bene, la chiamano terrorista? Sì. No, sì, io le dico, mi veniva da ridere, ma terrore di tante persone, dei pecorai soprattutto. E dei cacciatori. Ma sicuramente faranno delle azioni abbastanza forti verso questa donna. Persone che comunque l'hanno dovuto chiudere in macchina, la volevano linciare, di supposto, il giorno dell'accaduto. E secondo me, io allora, fare tutto prima di questo processo, che secondo me sarà molto veloce stavolta, ma molto veloce, e secondo me andremo a compromettere l'eventuale processo. Ma allora, sì, queste azioni forti, cioè mi dica cosa si merita secondo lei questa... Ma sì, sinceramente, come Diano ha scritto intanto, trascinarla dietro una macchina con una fune. Sicuramente quella è la prima cosa che io le farei. le ripeto, io sono molto non, cioè hai fatto una cosa, ti punisco subito. Laica deve essere una cosa che rimarrà eclatante per tutelare tutti gli altri cari, che la gente ci penserà due volte anche a non fermarsi. Ecco, ma queste azioni eclatanti, mi perdoni, perché noi vogliono ci organizziamo, bruciargli la macchina, questa prima cosa, e poi massacrarla di botte, perché comunque quella signora, quel mostro, quel mostro, perché quello è un mostro. Ma era drogata? Era drogata, scriveva. Non ha fatto una piega. E quando mi è venuto, perché io sono arrivato, gli ho mandato un vaffanculo, scusi il termine, perché il vigile mi ha spiegato un po' e lei ce l'aveva a due metri. Dopo 10 minuti mi è venuta incontro, mi ha messo il dito sul petto, mi ha detto: lei è una scostumata. Allorché in quel momento erano chiuse le sbarre, perché la stavo trascinando sotto, lì sotto al treno, la buttavo. Me l'hanno tolta, ma tanto penso che altri atti lo faranno anche prima del processo, perché mi hanno telefonato dicendo che comunque sembra che l'abbiano rintracciata, che è della zona, proprio sta lì. Purtroppo, purtroppo, faranno qualcosa, le faranno, perché quella non ha motivo di esistere su questa terra, quello nemmeno in bici può andare, perché quella rifarà lo stesso. Allora, i casi sono due: o si attiva immediatamente l'autorità civile, militare, politica della regione Abruzzo, perché io non so che ruolo abbia questa signora, ma è evidente che non ragiona. Cioè è evidente che una che dice che si sta preparando un'azione punitiva nei confronti di una signora che non so di cosa sia colpevole, può darsi pure che sia colpevole di mancato soccorso, non mi interessa, sono stato aperto indagini. Beh, sì, omissione di soccorso. Sì, può darsi, ma non siamo noi a deciderlo. No, cioè non siamo noi a deciderlo. È l'autorità giudiziaria che decide se questa qua è colpevole. Certamente non ci si può fare giustizia da soli. Cioè non è che uno parte per la tangente e dice: bisogna farsi giustizia, la volevo spingere sotto il treno, dovrebbe essere trascinata, eccetera, eccetera, eccetera. Se questa tizia qua, che non so chi sia, ha delle responsabilità istituzionali in qualche modo, ha delle cariche, beh, venisse sospesa, perché trattasi di pazza furiosa, di animalata, certo. Di animalata. Questo è l'estremismo animalista. Poi tu devi vedere, devi leggere sulla vicenda di questa Laica, dove ci sono una marea di commenti, migliaia di commenti a questa Cipriani. Tu non hai idea di che cosa scrivono, ma tu non ti puoi nemmeno immaginare. A favore, ma certo che a favore. Ma contro questa signora che magari è colpevole. Ma tu non hai idea. Allora, brutta puttana, network, brutta puttana psicopatica. Spero tu faccia una brutta fine. Ti auguro che la pazza paghi quello che ha fatto. Ma questo è il minimo, questo è il minimo. Questa qui la voglio vedere morire dietro le sbarre. Maledetta bastarda, ti auguro di finire sotto un camion, eccetera eccetera. Ah, dove andiamo? Clemente da Roma, dai, Clemente. Oh, finalmente l'abbiamo fatta. Dimmi Clemente, allora, Lucia, porca miseria, è da ieri che aspetto. Ieri prima. Ma vai, dimmi, dai, adesso ci sei, dimmi, dai. Ma la serie killer, la porca miseria di Teramo, fermati. Dai, comunque, dai, io non è che aspettiamo, non è che aspettiamo tutti te per intervenire, non è che siamo là con la lingua di fuori. Ho capito, però porca miseria, almeno mi avesse detto bene. Ieri è capitata quella che ti mangia carne e gli dia il tumore, e sono stato due ore a grattarmi. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Stiamo parlando del problema di Zingari. E il problema di Zingari, di campi nomadi, no, nel senso che c'è sta quello che dice da Ruspa, fai, dici. Sì, Salvini, ciao Salvini. Tutte cazzate, per semplice motivo. Sì. No, sono tutte cazzate, perché tanto quello, cioè tu gli sbraghi a baracca e tanto dopo due te la fanno 10 metri accanto. Sì, cioè, è probabile, ogni tanto succede, sì, oppure si spostano in città. No, purtroppo è così, è la realtà, perché tanto qualche gli frega. Il problema è uno solo, cioè, sì. Di che cosa c'ha paura tu? Zingaro dice da andare in galera, ma che gli frega? O Zingaro c'ha paura di una cosa sola, da andare a lavorare. Tu devi metti i lavori forzati, cioè tu mi fai accampamento, mi fai azzusseria. Sì. E allora riservi cosa? Perché prendi 5 mesi di lavori forzati, andiamo a riempire buche, a curare la monnezza per strada, e quelli dici: ma che sei matto? Questi mi fanno lavorare pure gratis, è normale, no, che emigrano verso altri lidi e se levano da cavolo. Questa però è una teoria interessante, Parenzo, cioè secondo Clemente ma qual è il problema? Sì, sentiamo. Ma però queste cose non si vanno fare, ma lo sai perché? Perché in Italia i problemi non si devono risolvere. in Italia i problemi non si devono risolvere. Tu dici, se uno li salva, poi no. I problemi c'è sta, i problemi c'è se magna. I problemi c'è nata l'industria. Questo è vero. Hai capito? E in questo però, caso cosa, c'è questo magna, è vero. No, quest'ultima parte. Che dici? Che c'è, sentiamo, a Parenzo adesso? Sentiamo, no, per carità di Dio, sentiamo. Senza aggressività stasera. Zecche le merda e prete infami. Zecche le merda. Vabbè, con l'editoriale del giorno. Zecche le merda e prete infami. Ma è normale, in Italia i problemi non si devono risolvere. Allora, è inutile che stai a FIFA. Il commentatore, normale, l'editorialista delle 19:29. Perché normale, no, cioè, sono uscite queste cose con mafia capitale. Però Clemente, scusami un attimo, Clemente espone quell'altro una teoria interessante, come fosse una persona normale. No, ma c'è assolutamente. Clemente esprime una teoria molto interessante. Sentiamo, che è quale semplice, sarebbe? Vediamo quale sarebbe. È meglio far lavorare i rom, lui dice. Poi lui parla di lavori forzati. Sì, ecco, che appunto, intendi tu appunto per lavori forzati? No, lavori forzati, cioè, non è che devi staccare la palla a piedi a spaccare. I lavori forzati, allora, Roma, noi siamo pieni di monnezza in periferia, cioè, è normale, no? Cioè, allora tu, beh, però non è che uno può far lavorare gratis la gente, Clemente. No, fermate un attimo, ma non è che ci mandi uno così, cioè, è normale, io, che se io vado a fare una baracca e faccio diventare una cosa tu dici bella, una baracca, una baracca diventa un merdaio, è normale, io sta cosa la devo ripagare, no? Ah, tu dici che basta, che gente così a lavorare, basta che metti giù la baracca, sei colpevole e dunque vai in qualche modo rieducato con i lavori forzati. Parenzo sta, sta... Ma no, devi, questo però fermo di un attimo. Il problema è questo, che per come sono messe le cose in Italia, no? Per come sono messe le cose in Italia, la gente non ci può andare in carcere, non ci può andare perché costa un botto. Costa un botto. Dunque, questa è una teoria suggestiva anche questa. Meglio i lavori forzati. Perché purtroppo è così. Perché se tu vai a vedere, Parenzo, cosa ne pensi? Non vai a fare lavori forzati. Aspetta, Clemente, insomma, dipende. Sì, e cosa Clemente ne pensi dell'intervento augusto di Clemente, Parenzo? Cosa ne pensi? Fermi tutti. Giù le mani da Cruciani. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. La Zanzara. Cruciani, vivo Wichita Falls in Texas. Preparati a due lunghissimi mesi di astinenza sessuale. Trump vincerà, nessuno vuole la Clinton qui. Avanza l'uomo col parrucchino, avanza! Avanza l'uomo col riporto. Se ti piace così, avanza, se ti piace l'idea che s'avanza la nazione più importante al mondo sia guidata da un pazzo scatenato col parrucchino giallo che vuol dichiarare guerra all'Islam. Si avanza, se Trump. Se ti piace così. Trump, io lo voglio chiamare Trump, non Trump. Trump lo voglio chiamare, sì, Trump. S'avanza Trump o Trump. S'avanza la truppa Trump. Allora, succede qualcosa di incredibile. Cercasi nano o disabile che faccia tenerezza. Ma tu ti rendi conto? Profilo così. Facebook della responsabile castica. A parte, tu veramente non leggi un cazzo, è incredibile. Beh, queste notizie. Profilo, no, è sulla prima pagina di tutti gli tutti i giornali. Ma se tu mi profilo cose... Facebook della responsabile casting della Film Commission Piemonte. Sì. Della Film Commission Piemonte. Sì. Cosa succede? C'è una serie che si dovrebbe intitolare Romanzo familiare, che sarà diretta addirittura dall'Archibugi, prodotta da una casa di produzione che si chiama Wildside per la Rai. Come? Parte il cast, la ricerca del cast, e sul profilo Facebook di una signora che si chiama Luana Belishig, responsabile casting, si legge, senti, si cercano vari ragazzi, 15-18 anni, origine araba, origine slava, robusta costituzione, eccetera, eccetera. E fin qui, diciamo, nulla questio, no? No. E anche un ragazzo, senti, di 15-18 anni, nano, o con altra disabilità, e va bene, fin qui possono cercare tutti i nani che vogliono, naturalmente. Senti, che trasmetta tenerezza. Che trasmetta tenerezza. Cioè, vogliono. Beh, ragazzo mio, cioè, abbi pazienza, che cazzo vuol dire? Tu metti nero su bianco che cerchi un nano o un disabile, beh, che trasmetta tenerezza. Che trasmetta tenerezza, però. Ma dai, non deve essere su un nano aggressivo. Ma deve, capito, essere uno, ma che trasmette, amico mio, amore. Ma non si scrive così, dai, adesso non voglio fare il politicamente corretto, ma no, appunto da te No, da te questa polemica non si può veramente sentire. Cioè, è giusto secondo te che un programma televisivo... Stanno facendo un casting. Stanno facendo un casting. No, ma secondo, posso che mi ricreda, può darsi che mi ricreda. Secondo, non stanno obbligando nessuno. Se fanno un casting vuol dire che c'è anche qualche soldino. La televisione è piena nel mondo di straordinari nani che hanno fatto la storia della televisione. Dunque, inutile che ti ricordi Josephine, ad esempio, la straordinaria nana che sulla 7 ogni sera fa più del 3%. Mannaggia Josephine, allora, la signora Josephine, il nano che fa le indagini, presente la grandissima. No, per te è normale che un casting dica esplicitamente che ci vuole una nana. No, ma magari hai ragione tu. Fermo un momento, fermo. No, ma sto dicendo, da te che cos'è la normalità? Non voglio sentir parlare. No, ma può darsi che tu abbia ragione. C'è gente che fa la pipì nel lavandino. Ma guarda che non ce n'è tantissima. Devi pronunciare la parola normalità. Tantissima. No, hai ragione. Venendo... Hai ragione. Ecco, hai ragione. No, mi sta chiamando il medico, mi ha detto di non arrabbiarmi più. No, mi però hai ragione. Allora, mi sono ricreduto. Allora, se un casting ha bisogno di una faccia di un down, certo, diciamo, di una persona disabile, la faccia, il volto, i comportamenti di un disabile, oppure di un nano, che non sia quello arcigno, no? Sì, quello arcigno, hanno tutto il cazzo del diritto. Tutto, certo, il cazzo. Ho ripensato in due minuti. Guarda, hanno tutto il cazzo di diritto di scrivere esplicitamente. Non è che li trattano male o li deridono. No, anzi, vogliono una persona particolare. Ma vogliono, scusami, un disabile che trasmetta. Ti faccio un esempio. Hai ragione, guarda, mi hai convinto. Ti faccio un esempio più popolare ancora, se vuoi. Mi hai convinto. Quello straordinario Down che però ha fatto dire il a Nicoletti, film... devi dire a Nicoletti che ha detto tenerezza a sto cazzo. Aspetta, che è un coglione. Nicoletti, devi dire che sbaglia. Nicoletti ha le sue ragioni, va benissimo, e lo ascolto sempre con grande rispetto. Non l'ho sentito, quindi non lo so. Ma quel Down straordinario che ha recitato nel film di Benigni, Johnny Stecchino, ad esempio, sì, ce lo vogliamo ricordare? Sì. Cos'è? Ne ha fatto un uso strumentale? No, anzi, ha reso anche drammaticamente popolare una malattia, no? Allora, di che parliamo? Non no, c'è no, cinismo no, ma è vero, in hai ragione, questo. Hai ragione. No, no, no, una che fa il casting, quelli che fanno il casting hanno bisogno di persone specifiche, hanno bisogno di un disabile che trasmetta tenerezza. Dunque, non rompete il cazzo. Cioè, ma va bene. Ma io capisco che no, qualcuno possa... No, Nicoletti col figlio, ma cioè, no, non ma sa... che c'è? Dai, c'è un casino. Ottime ragioni, va benissimo, e fa bene ottime a dire ragioni. La sua. Si è incazzato perché dice non si può scrivere questa roba qua. È il suo parere, magari ha ragione, io non ci ho riflettuto su questo. No, ho detto magari avrà le sue ragioni per sostenerlo. Non ho sentito cosa ha detto Nicoletti, mi dispiace. Però premesso che Nicoletti ha sempre ragione per aspetta, me. Aspetta, sempre. Sentiamo. Il nostro grido di apertura e di amicizia verso chi fa il casting per disabili che ispirano tenerezza è espresso in questo cartello, pensato e coniato da questo tenero disabile. Casting disabili, tenerezza, sto cazzo, dillo Tommy. Calcio. Bravo. Era il figlio, naturalmente. Fantastico. Sì, però mi hai convinto di questa cosa qua, che se c'è un casting, se c'è una commissione, se c'è una produzione che deve scegliere una figura particolare di persone con disabilità o di nani, e li vogliono anche con atteggiamenti teneri, hanno tutto il diritto di scriverlo. Basta, dico una cosa banale, basta che non vengano derisi, ovviamente, o strumentalizzati. Ma quello poi ognuno si assume la responsabilità. Savasandir, no, quello è un altro discorso, ecco, certo. Appunto, che c'è? No, appunto, dai, appunto. Però va sempre detto. Perché... Antonio da Matera, vai Antonio, vai. Oh, pronto? Vai, dimmi. Ciao Cruciani. Sì, allora, sì, senta, dimmi. Io sto per fare il 7.30. Stai per fare il 7.30? Sì, ti sento. Certo. Niente, sulla scivolata del Papa Francesco. Beh, roba vecchia questa qua. No. Aspetta, scivolata, la frase di Papa Francesco sugli animali. E il Papa non scivola, sì. Primo. Ma no, cosa. Può anche scivolare il Papa. Sì, nel nostro mondo. Che stai facendo? Scusa, calma, che stai facendo? Calma, lo diciamo noi. Intanto. Ma che stai facendo? Non ho capito. Antonio, che stai facendo? Io sto chiamando voi. Sì, ma che stai facendo? Hai detto calma un attimo, che dovevi fare? Niente, che mi state già aggredendo. No, ma che aggredendo? Per carità, ma allora, senti un attimo. Ho deciso di devolvere non più alla Chiesa Cattolica i 5 per 1000, ma a un'associazione animalista. Sì. Non perché io sono... Cioè, dopo le parole del Papa, stai dicendo? Eh sì, mi ha un po' rotto le scatole. Comunque sia, anche per me, diciamo, il numero uno è ancora Ratzinger... E quindi... Ma che c'entra adesso Razzi? Che cazzo ci frega? Comunque il Papa. Ma questo non c'entra niente, sei malato. Cioè... No, il Papa ha detto: una cosa, e tu vuoi dare addirittura l'associazione animalista. Ma se ti piace così, io che ti devo dire? Se sì, ti piace così, se ti piace purtroppo... così. Oh, e sei malato. Paolo, piace così. Paolo da Cosenza, vai Paolo. Giuseppe, buonasera, saluto anche quel galantuomo di David che... Salve caro, buonasera. Buonasera. Buonasera. Sì, buonasera. Dimmi Paolo, dimmi, dimmi. Siccome è troppo galantuomo non posso rivolgermi a lui, mi rivolgo a te. Sì, io, sì. Ho un problema, è una mia condizione emozionale, non lo so, è stata da una sensazione irrazionale o è vero che è una bomba sexy. Tu sei un grande donnaiolo, amante, ma questo amante. Lo dici tu, ma Paolo, vabbè, vabbè, se amante, a me queste definizioni, io, donnaiolo, ma, playboy, tutta puttana, attenzione, attenzione, attenzione. Però devo dire una cosa, caro Parenzo, devo veramente scoprire, i miei vicini di casa sono veramente dei personaggi incredibili. Questa mattina esco da casa, sì, e diremo trovo anche l'indirizzo e la via. No, no, no, no. Sì, e trovo, sì, sì, ti giuro, guarda, la faccio vedere qui sulla webcam, e trovo sulla sul come cazzo si chiama? Sul portone, sullo spioncino. No, il portone, dico, mancano le parole ogni tanto. Sì, sulla soglia di casa, che c'è là? Sull'uscio. Sì, sull'uscio, cosa c'è di solito? Il tappetino. Il tappetino c'è, che c'è sull'uscio? Il come lo chiama? Il tappetino, bravo, il tappetino. Il tappetino, stai tranquillo, stai calmo, la mia età, dai, sono a rompere il cazzo. Allora, a un certo punto esco da là e trovo delle mutande. Sul tappetino? Degli slip, buttati là. Ma solo a te capita? Ma cosa incredibile. È tutto normale per te? No, dico che è normale, non dico, beh, che è normale. Cioè, ti capitano delle cose che fai passare per normale? No, eccole qua, le mostro qua. No, non lo so se sono sporche, me le sono portate dietro. Sono? Non lo so, delle mutande. Te è normale? Ma io non ho detto che è normale, è una specie di tanga, una specie di tanga con la striscia nera, solo una striscia dietro, un tanga con dei fiori, eccetera. Ammetterai che è vagamente curioso. No, è curioso, ma non avendo io ricevuto milioni di persone in macchina all'ascolto, non credo che sarà capitato tante volte. No, però ti assicuro, adesso le mostro qua, perché magari qualcuno dice, sono mio, ho fatto uno scherzo, te l'ho messa là davanti. Esco da casa e proprio sul tappetino trovo queste mutande femminili, ovviamente, specie di tanga dietro, molto questo stretto. Questo te l'ha detto, potrebbero essere anche di Mercù. Sì, qualche tra, no, quello che mi pare molto difficile, che Andro Mercù porti questo tipo di mutande. Che ne sai tu? Potrebbe magari essere un trans, ma i trans di solito per contenere non usano queste mutande qui, no. È una specie di capito? Mercù, sì, hai visto le dimensioni. Sai che io poi, tra l'altro, l'intimo femminile non mi è piaciuto a me in realtà, cioè l'intimo femminile non è una cosa di cui sono appassionato, per cui chiunque abbia fatto questa butade deve sapere che io non sono appassionato di intimo femminile, cioè me ne frego, mi interessa molto più quello che c'è sotto di quello che c'è sopra in generale, cioè non sono un feticista dell'intimo femminile. Ti interessa questa cosa, Parezza? Questa era una notizia importante, vedo già l'ANSA che le agenzie che l'hanno già ribattuta. Allora comunque sanno... ragazzi, questa è la mutanda, mutanda nera di pizzo, molto molto, sì, un modello imprecisato, eccetera eccetera, non so di chi sia, ma qualcuno mi ha fatto lo scherzo sulla porta di casa, sul tappetino, di farmi trovare questa mutanda. Vabbè. Paolo da Cosenza, vai Paolo, che stavi dicendo? Questo, no? Mi rivolgo a te, non dimmi, dimmi, a Davide. Dimmi. Il problema è che ho una fortissima attrazione sessuale per l'onorevole Picerno. Ho messo, vabbè, adesso, scusa, casa. Però amico mio, però adesso ho messo il poster a casa. Io non penso che un mio amico mi dice, ma come hai messo il poster a casa della Picerno? E tu ce l'hai da Gigi D'Alessio il poster a casa? Io non posso mettere quello della Picerno. Io non credo che sto paese sia consiglio. Normale, se... io volevo un tuo consiglio, se è una bomba sexy o una condizione mia irrazionale. Beh, io, amico mio, adesso per carità, va tutto bene. Va tutto bene? No, si non può? Va tutto bene. No, fidati. Sì. Fidati che non va tutto bene. No, va Fai tutto passare, bene. Stai avallando culturalmente, no, delle cose che non va tutto bene. Fidati di me. Guarda, no, non ma va tutto bene perché adesso non è né tutto sarà bene, un delitto Roma. Mettersi nella propria stanza il poster della Picerno. Secondo te potrebbe? Io sono potrebbe... un amico della Picerno. Vabbè, appunto. Non è, no, ma è un'altra cosa che contesti. Ma perché tu vai non... all'oggetto di quel che dice? No, no, no, ma scusa, vai tu... ma non ho capito. Ma perché uno, questo qua ha un'attrazione sessuale nei confronti della Picerno? Ma secondo te è normale che un radioascoltatore chiami? Perché non è normale? Male, vabbè, per non dire non che ha un poster e che ha un'attrazione per l'onorevole. Ma, te perché? Questo, ma perché questa dinamica ti sembra normale? Ma perché non dovrebbe essere così? Perché è un che lo Zerbino, era lo Zerbino anche, mi perdo le parole. Abbiamo detto lo Zerbino, tappetino, Zerbino, sì, non sentivo. Oggi sono rincoglionito, cosa vuoi? Non sono rincoglionito, ma non mi ricordo le parole. Allora, dove sei? Chi è qua? Paolo. Allora, perché tu hai questa attrazione sessuale? Questo voglio capire. Che io la vedo in TV, quando sorride praticamente impazzisci, io impazzisci. Vado in est. Ma scusa, c'è gente che c'è a casa il postere di Salvini, Davide. Io sì, non questo posso pure avere è vero. Poste, questo questo, avere anche vero. Di, da questo è già più anormale, effettivamente. Scusa, no, però lui dice che ha un'attrazione sessuale. Adesso, amico mio, io non ti posso dire se è normale. Ognuno ha l'attrazione sessuale che ha, per carità. Io non ce l'ho questa attrazione sessuale nei confronti nei confronti della signora Picerno. Però se tu ce l'hai, io che te posso fare? Cioè, mica ti posso. Ma dove ce l'hai posizionato questo poster? Ce l'ho sul letto. Sul praticamente, letto. Sì. E non chiedo altro, per carità di patria, giusto, Parenzo? Per tutelare le istituzioni, non chiedo altro. Ma non per le istituzioni, per il suo. Ma lei è sposato, è fidanzato? No, ha una famiglia? Evidentemente no, non credo. Non lo so, evidentemente. No, non sono sposato. Sei single. Sì, però non avrebbe cambiato niente. Io il poster lo attaccavo lo stesso. L'attaccavi lo stesso, semplicemente per questa attrazione sessuale nei confronti dell'onorevole Picerno. Vabbè, amico mio, che ti vuoi. Hai chiamato per dirci se hai qualche problema o no? Questo è, vuoi sapere? Volevo solo un consiglio da parte tua. Ma un consiglio, amico, ma che consiglio ti posso dare io? Cioè, ormai sei diventato il punto di riferimento. No, di ma queste, il consiglio è questo: se uno. Gente. Io quando ho un'attrazione sessuale, però non metto il poster, anche perché i poster non sono inutili, ormai basta andare su internet, sul telefonino, vai lì e guardi la signora Picerno. A meno che non sia un poster particolare, ma non credo, no? Cioè, non. A Picerno non credo che abbia no, mai fatto poster con pose particolari. Non è uno di quei politici femmine che in passato ce ne sono poche che hanno fatto dei calendari sexy, no Paolo? Sì. Ma non so, la Grafagna, per esempio, un'attrazione sessuale, solo un'attrazione. È un'attrazione sessuale. Ci vuole comunicare questa cosa. Benissimo, arrivederci. Esatto, che ormai è tutto finito. La Zanzara. In collegamento forse dalla sua macelleria, Dario Cecchini, buonasera. Buonasera, buonasera Giuseppe, buonasera a tutti. Come ciao. Andiamo Dario, numero siamo uno? Benissimo, andiamo da Dio, siamo in bottega, abbiamo gli SDC di sottofondo, un sacco di bistecche da mettere sulla griglia e tante altri pezzi di ciccia. Dimmi una cosa Dario, molto vicino al paradiso dei carnivori. Dimmi la verità, sono o non sono diventato il numero uno, l'idolo di tutti i macellai italiani, dimmelo. Guarda, comunicami guarda. Questa cosa, fammi godere, ti prego, fammi godere. Ti adoriamo, faremo dei santini con i Cruciani. Oh. Cruciani for president. Benissimo. Cruciani, facciamo salsiccia. No, col cazzo, no, facciamo salsiccia. Che salsiccia? Ma che sei matto? Tanto, ma chi vi ha mai difeso come ho difeso io? Chi vi ha mai difeso, amico mio? Qui bisogna andare all'attacco. All'attacco sempre. Non bisogna farne passare una, amico mio. Senti, ormai, scusami, il nostro amico macellaio Cecchini è più in televisione, cioè è in macelleria perché si collega dalla macelleria, ma è sempre in televisione. Vabbè, partecipa ai dibattiti, si diverte, che gli frega. Senti, è vero che ti minacciano di morte, Dario? No, anche. Mi minacciano di morte. Negli anni, Giuseppe, hanno fatto attentati. Sì. 2001, il funerale come della bistecca, sì. L'Animal Liberation Front. Sì. Ho avuto una scorta in Brasile di colonnelli dell'esercito che quasi quasi facevano più paura loro. Ma adesso, adesso, in quest'ultima tornata, in quest'ultima. Ma più che altro, diciamo che sono molto gentili su Facebook. Tipo Cecchini, ti venisse un altro tumore. Questa è la cosa più carina. A proposito, caro Dario, a parte che mi hai detto nel pomeriggio quando ti ho chiamato che stavi mangiando, che cos'è che mangiavi nel pomeriggio? Il bollito. Si chiama Alessio, mentre mi hai chiamato mi hai distratto dal mio bollitino con una maionese buonissima che aveva fatto la mia cuoca Simonetta. Sono contento perché aspettavo da mesi e mesi la tua telefonata, quindi ho interrotto volentieri, però era la mia merendina perché, ma caro, scusi, Giuseppe, sì. Io mangio ciccia. Sì, no, ma quello l'ho capito che tu mangi. Ma lei mangia carne tutto il giorno? Cioè sì. Dalla colazione? Dalla colazione, la colazione com'è? Io mangio carne tutto il giorno perché credo di essere figlio di Lucrezio, di Dererum Natura, di Rinascimento e sì. Di godere la natura che ci sta. No, ma ci spieghi il suo menù, scusi professore, perché parlano. Quest'altro parlano di salute. No, di ho capito, ma signor macellaio, scusi, ci spieghi questo. Cioè lei da quando si sveglia alle 7 del mattino sino a quando sì, si bravo, corica sì, sì. Alle 24, sì. Lei mangia ininterrottamente carne? No, sì. Mangio ininterrottamente carne. Beh, non caffè latte a colazione, con una brioscina. Occasionalmente mangio delle verdure. Occasionalmente, ma anche la carne, anche la carne a colazione bacon, cosa fa? Tartara cruda alle 10, l'11 la mattina, un bicchiere di vino rosso, che beh, anche l'altro di panzano. Allora, diciamo la verità: 10-11 una tartar cruda. Ci faccio il menù. Poi a pranzo come andiamo? A pranzo mangio qualcosa sulla griglia, un po' di bistecca, un po' di carpaccio di culo, che è un nostro piatto di culo, anche perché si fa a fettine sottili e, come si dice in Toscana, una fettina di culo ogni tanto fa bene. Non c'è dubbio. E invece la sera? La sera? Un bollitino a merenda e la sera quello la che fiorentina, c'è. La fiorentina. Non vado per il sottile anche perché la mia etica è di usare bene tutto l'animale. Dare agli animali una buona vita, una morte compassionevole. Qualcuno inorridirà, Giuseppe, te tu lo sai, tu sei il primo a saperlo, capito? E per cui io sono stato allevato in una famiglia di macellai, una famiglia non ricca, diciamo. Ma quanti animali hai vivisezionato nella tua vita, secondo te? Quanti pezzi di animali hai tagliato? Ho visto cose, voi umani. Tipo? Quanti animali hai ammazzato? Migliaio, 1000, 2000, una cosa di genere. 41 anni di lavoro, metti 5-6 animali la settimana. Io, francamente, non ho fatto il conto. Ma tu, proprio con le tue cose? Ho fatto il conto dell'arista in porchetta, perché da noi è tradizione. Io lavoro manzo e maiale. Da noi è tradizione per i maestri rossicceri misurarsi a metri. E credo dell'arista in porchetta deve essere vicino ai 20° chilometro. 20 chilometri metri la settimana. Arista in porchetta, ragazzi. Il mio maestro Luigi di Loro Ciuffenna, ristorante il Cipresso, che ha fatto arrosto girato allo sfiero per 75 anni, era a 43 chilometri. Non ci arrivo, ma mi ci provo. Allora, ragazzi, qui vogliamo però parlare di una roba. Ieri sera alla Zanzara la signora Martani ha detto: ma questo Cecchini che parla di morte compassionevole degli animali, non vi ha detto una cosa? Che si è preso un cancro, un tumore anni fa, perché mangia dalla mattina alla sera la carne. Il giallo del tumore di Cecchini, che in realtà non è un giallo, perché lui stesso ha detto in un'intervista tempo fa di essersi operato la prostata. Comunque, Cruciani, ammazziamo gli scarafaggi. La Zanzara. Conversione delle macellerie in frutterie. Siamo al top. Allora, il collegamento dalla sua macelleria, il mitologico Dario Cecchini. Eccoci qui. Ciao, allora, Giuseppe. Caro Dario, c'è una questione molto semplice. La Martani ieri, la super vegana, ha detto ha avuto il cancro e non ve lo dice. Ha avuto il cancro perché mangia continuamente la carne. Allora, prima cosa, è vero o non è vero che tu hai avuto sto cancro, sto tumore? È vero. Ho avuto un inizio di cancro alla prostata l'anno scorso, mi sono operato, per fortuna tutto funziona. Tutto funziona, cioè riesci a trombare ancora? Tutto funziona, sì. Ma quanti anni hai, scusa? 61 a settembre. 61, dunque, 61 nonostante... 61 a settembre, 41 anni di macellaio da solo, 41 anni di bottega di macelleria, panzani e chianti. No, beh, insomma, c'ha 11 anni più di me, cazzo. Dici, mio coetaneo, scusa, sei impazzito. Più vicino a te che a me, insomma. Ma quello sicuro, che vuoi dire? Allora, tu coetaneo. È successo, Giuseppe, ha avuto questo cancro, è stato un periodo... Però siamo sicuri? Siamo sicuri che si tromba? Oggi sì, cioè... La funzione erettile, la funzione erettile integra, tutto integro. Per me sì, per quegli altri ottimo. Non lo so. No, vabbè, tu. Non è uno straccetto, non è uno straccettino di quelli che si mangiano a Roma, sai, gli straccetti. No, vabbè, perché... Allora? Un amico inglese che doveva fare un'intervista per Newsweek mi ha chiesto: ti conosco abbastanza, cosa è successo negli ultimi anni? E io gli ho detto: ho aperto un altro ristorante, sempre di ciccia, e ha avuto un cancro. Dice: come hai avuto un cancro? Dice: queste cose in Italia non si dicono, si nascondono le malattie. Io le dico, perché è la verità, sono uno che è al pubblico, è dietro un banco, e quando mi succede qualcosa vado negli ospedali pubblici. Ma lei ha detto chiaramente: tu, siccome mangi carne dalla mattina alla sera, ti sei beccato il cancro, perché lo dice l'OMS, che poi è una cazzata, perché non ha mai detto una cosa del genere. Guarda, Giuseppe, questa signora la può dire che la vuole. Ma la conosci tu, sta Martani, la conosci? Sto bene a mangiare carne, tutte queste paure salutiste non mi toccano, cerco di mantenere un equilibrio nella mia dieta carnivora, mangiando un po' di verdure e cercando d'alternare con non sei preoccupato? Assolutamente no, anche perché sembra che la vita sia una punizione, un sacrificio. Siamo in questo momento nel cuore della Toscana, nel cuore di Chianti Lazio, vini buoni, bistecche buone e tutto il resto di manzo e di maiale, sì. Ci sta bene, ho la macelleria piena di carnivori che stanno per andare a tavola . E io devo essere preoccupato, ma di... No, ma che ne so, perché questa qua dice che tu mangi carne la mattina alla sera e ti sei preso un tumore, signora, un cancro. Questa pensi alla sua di salute. Che io, come si dice in Toscana, penso alla mia, mi fa anche piacere da un certo punto di vista che lei si occupi, preoccupata, ma francamente me ne infischio, come diceva. Senti, ma non sei un po' incazzato? Non sei un po' incazzato del fatto che i vegani, per esempio, ogni tanto mettano dei nomi? Io, per esempio, sono incazzato pure non essendo un commerciante, un artigiano della carne, eccetera, eccetera. Mettono ogni tanto dei nomi ai loro prodotti per fottere, ovviamente, i consumatori, per avvicinare i consumatori ai prodotti vegani. Per esempio, la Fiorentina vegana. Io ho visto l'altro giorno una roba che si chiama Fiorentina vegana. Roba da... Ma denunciali, no? La Fiorentina vegana. Ma Fiorentina vegana, la sai? Ma io, senti, Giuseppe, ti dico la verità, io sono per il libero pensiero. Io nei miei ristoranti ho due menù vegetariani di rispetto. Chi non vuole mangiare la ciccia, anche in questo momento c'è qualcuno che mangia un menù vegetariano. Basta che non ci rompono il cazzo a noi. Basta, sono che non... tavoli conviviali, se c'è uno nel gruppo che non gli va, non gli va. Ma non capisco questi fondamentalisti che offendono il libero pensiero. Lo so, ma perché pensano che tu sei un inquinatore, perché pensano che sei un assassino, perché quelle robe rosse che hai portato in televisione in questi giorni, quelle robe rosse piene di vita, piene di vitalità, roba rossa piena di vitalità, di vita, perché questa è la realtà, quella è la vita, quella è la vita, è la vita. Bene, di animali felici. A proposito, ma sarà un loro problema, il mio non è. Ma scusa, a proposito, però la morte con passione, tu dici che se un animale ha una morte compassionevole, poi più buono, è più tenera, la carne. Io dico, quello è curioso, però, dimmi. Il macellaio è sempre stato nella storia dell'umanità l'uomo incaricato, la persona incaricata dalla comunità a procurare il cibo carne. Parenzo, e tu stai così accanto, è ebreo, sa benissimo che la macellazione la fa il rabbino. Quasi tutti gli anni io vado in Israele perché c'ho un sacco d'amici. Vabbè, ma allora, che vuol dire, la no? dispensa di insegnare agli chef a Tel Aviv, a Eilat e da altre parti la macellazione, cioè come usare bene tutto l'animale senza spreco, cioè come rispettare l'animale. L'anno scorso ho cucinato nell'ambasciata italiana kosher. Non ho capito una cosa. Secondo te l'animale, la morte poniamo che ci possa essere una morte compassionevole di un animale. Non compassionevole, una morte senza soffrire. Vabbè, la morte senza migliora la qualità della carne? Ma certo. Migliora la qualità della carne, ma soprattutto migliora la nostra salute, visto che questa signora si occupa tanto di salute, perché un animale che sta bene, che è nutrito bene, che ha avuto spazi liberi, che ha mangiato bene, che ha avuto una morte, diciamo, meno dolorosa, più ragionevole possibile, se si può parlare di questo, e che viene usato tutto bene, va bene a noi, è stato bene lui. Va bene, dobbiamo fare qualcosa, c'è chi. A presto, Giuseppe, ciao, d'abbraccio. La ciccia e chi la stropiccia, che godin un poco. La stropiccia però è una cosa un po' sessuale. No, è una cosa un po' carnale. Un po' carnale, no? Arriva la ciccia e chi la stropiccia. Ragazzi, io devo risolvere il problema di questa mutanda, non so veramente, qualcuno mi deve chiamare, te l'ho lasciato io le mutande sul tuo cazzo di Zerbino, perché non è possibile che le persone improvvisamente la notte o non so quando, la mattina presto, qualcuno mi lasci un paio di slip sul mio Zerbino. Cioè, ma di che stiamo parlando? Dai, su. Cioè, uno magari esce da casa con... magari con, è il tuo domestico. Con la fidanzata, con chiunque, dice, ma come, ti lasciano le mutande sullo Zerbino? Cioè, solo a te capitano. Ma no, ma non so se capita solo a me. Comunque, Luca dalla provincia di Roma. Vai, Luca, dimmi. Pronto? Luca? Sì. Salve, io volevo andare Luca, però adesso già c'ho il latte alle ginocchia, già mi sono fatto due coglioni. Ma che è sta voce? Sono le 20:06, amico mio. Dai, su la voce, forza. Che ti è successo? Che ti sei fatto una canna pure tu? No, ma che sto studiando. Stai studiando? Quanti anni hai? 19. Beh, a 19 anni non puoi ascoltare la zanzara, però devi studiare, vai a una mostra, vai alle scuderie del Quirinale. No, ma quale mostra? Ma vai a Palazzo Grassi, a Venezia. Mi dici la stessa cosa quando giochi mai, che devo studiare, sono sempre lo studente di giurisprudenza e sto comunque affrontando quasi la sessione estiva. Vabbè, non è questo di cui volevo parlare. Volevo dire, caro David Parenzo, tu sei tanto difensore della democrazia, dei valori, ma appena chiama uno... e va contro il tuo pensiero e dici no, attacca, subito devi vedere contro. Mai detto attacca, solo se uno offende oltre ragionevole misura, caro. Sì, va bene. Ma vabbè Luca, che vuoi dire ancora? Non ho capito cosa vuoi dire, spiegami. Perché se uno chiama e va contro la tua ideologia subito che gli vai contro? Vabbè, c'è un confronto tra idee, non rompere i coglioni. Dai Luca, Giuseppe da Milano, ciao, t'abbraccio. Giuseppe, vai. Pronto, buonasera. Dimmi Giuseppe. Allora, vi racconterò una cosa assolutamente vera, che in parte è stata... Tra l'altro, la notizia è questa, che la società di produzione là e la Wildside si chiama, hanno praticamente sospeso... Mandato a casa il capo del casting. Sì, il capo del casting. Vabbè, però mi pare una cosa abbastanza... Cosa? Adesso sì, beh, loro hanno preso una misura così dura. Dai, deciditi però, Cioè, o sei dalla parte di chi dice questi casting è normale che avvengano in questo modo, oppure no, perché non è possibile. Ho detto loro, la società si è sentita evidentemente nel vabbè, ma questa la spiegazione lasciala perdere. Tenuto. Io lo avrei, cioè, avrei spiegato perché, cioè, non mi sembrava offensivo, ecco, non mi sembra tuttora offensivo. Ma hai fatto in due secondi, mi hai convinto del contrario, adesso torno indietro. No, io ti dico che non mi sembra offensivo. Ma è l'ipocrisia italiana, no? L'ipocrisia italiana è quella che dice, siccome c'è il caso mediatico che scoppia, siccome parla Nicoletti, perché ha tutto il diritto di parlare, fa casino, eccetera, eccetera, dicendo, i disabili... Cioè, non mi sembra una cosa politicamente scorretta, ecco, non mi sembra questi una roba. Questi cercano personaggi, cercano tipologie, è normale che cercano... No, ma io l'ho letto tutto, perché c'è scritto la slav, cioè come dire, sto facendo un film, mi serve un ragazzo di colore con i capelli ricci, no? Sì, serve, oppure mi serve il uno il nano senza una gamba, con i capelli sporchi, il nano con i capelli Cruciani, con i capelli, lo chiamo Cruciani, certo. Oppure mi serve uno con il pisellino piccolo, Mercù, mi serve, no, ma adesso perché gli stai dicendo che c'è il cazzo piccolo? No, faccio per dire, mi serve uno col pisellino, mi serve uno che fa la pipì nel lavandino, Cruciani di nuovo. Allora, capito? Uno ha delle tipologie di persone che, ma senza nessuna offesa, no? Vabbè, allora sembra... Giuseppe, che mi volevi dire, Giuseppe, dimmi. Che la scena che si riporta nel film The Wolf of Wall Street, sì, dove c'è il lancio del nano, il lancio del nano, è assolutamente veritiera. Io non l'ho vista personalmente. Ovvero, in Lehman Brothers a New York, negli anni '80, uno dei trader che fece molti soldi giocando sulle basi, una volta organizzò con un gruppo di nani il lancio del nano, per cui fece allestire una parete in tessuto adesivo e poi mise un bersaglio al centro e questi signori si presentavano. È una schifezza questa, però. No, è assolutamente vero. Sì, ma è una... No, certo che è vero, magari. No, è una ma schifezza. Lui vuole dire che in realtà il lancio del nano sulla parete adesiva, lui dice, ha avuto bisogno, adesso non mi ricordo bene la scena del film, ha avuto bisogno di che cosa? Ha avuto bisogno... È accaduta veramente. Cioè, dunque, hanno reclutato queste persone, dici tu, no? Esatto. Queste persone adatte allo scopo. Dunque, loro decidevano una scena, c'era bisogno di un nano di un certo tipo, che non so, di un nano elastico, piccolo. No, sto scherzando naturalmente, se no mi accusano pure su questo fronte, non abbiamo mai toccato questo fronte degli handicap, non vorrei suscitare casini su questa cosa qua, però... Se una casa di produzione, all'inizio mi ero un po' scandalizzato. Devo dire la verità, in due secondi ci ho ripensato. È il bello di questa trasmissione. Allora forse se tu la pensi come me, mi preoccupo. E forse no, cambio ma opinione. Nel senso che, ragazzi, se... A me non sembra politicamente scorretto, né maleducato, né cattivo. Se cercano un nano, però... un handicappato, là, un disabile con che susciti tenerezza, ma perché non vogliono magari il disabile... No, guarda... È molto semplice, io subito ho pensato, appena hai detto questa cosa, ho letto sta notizia, al ragazzo che ha partecipato al film di Roberto Benigni, Johnny Stecchino. Vi invito a rivederlo. È normale. Nel film Johnny Stecchino c'è una scena tenerissima e straordinaria, peraltro, quindi non... Fermi tutti. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Caro David, non ci crederai, ma mi è venuto a trovare un sacco di gente questa sera, qui alla Zanzara. Tu non sai nulla perché sei lì. No, peraltro, scusami un secondo, perché sto rileggendo l'appello della capa del casting di Wildside, della povera Luana Velleschig, che è stata, dico il nome perché è pubblico. Vabbè, allora l'ho detto prima anch'io. Luana Velleschig, che ha tutta la mia solidarietà, perché lei ha scritto, cerco ragazzi, Francesca Archibugi, ragazzo di origine araba. di origine slava, uno di robusta costituzione, uno di origine slava con neonato e che allatti ancora, quindi e anche nessuno ha detto niente, dice. Esattamente, è anche una specie. Uomini e donne tra i 4 e i 70 anni con accento livornese. Quello incriminato è 15-18 anni, nano o con altra disabilità che trasmetta tenerezza. Ora, siccome qui stiamo parlando di un caso, cioè, non mi pare ci sia nulla ma di... No, di, ma non c'è di, nulla, dai, non c'è nulla. Non c'è di nulla. Cattivo, di violento. Ragazzi, ragazzi, torna il peggio o il meglio, diciamo il peggio, vai, il peggio di Radio Padania, vai. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Apprendiamo che Dio sta per intervenire. Padania bella e libera. Guardava. I cristiani a loro volta non hanno amore sufficiente per tenere a bada il demone islamico. Dio sta per intervenire e sconfiggerà tutti i piani dei suoi nemici. Beh, questo è interessante, eh? Cioè, interessante. Ci rincuora questa cosa qui. Le ci rincuora nonne apocalittiche, le nonnine poi padane. Poi ci sono i negretti e i negroni. Che rabbia, che schifo, che cosa non si può neanche dire. E poi dopo vai in giro e ti vedi questi bei negretti, negroni, lì belli, vestiti, e fa un cazzo lungo la strada. Questa la dignità non ce l'hanno. Però cazzo, questi sono aiutati. La nostra gente invece scarpate nel culo. Cazzo, ma riusciremo a cambiare tutta sta merda. Libertà! Napolitano! Come lo chiama Pagani, quel napoletano, quel vecchio, che è una roba schifosa, veramente indegno, una persona schifosa, a sapere quanto prende di pensione di cosa quello lì a 5500 anni, cioè quello lì dovrebbe, un verme del genere dovrebbe vergognarsi, come lui tanti, sono senatori, prendono stipendi e pensioni da paura per cose e hanno il coraggio di andare in televisione e pontificare, ma dovrebbero nascondersi con la testa, ma sotto la melma dovrebbero, ma guarda, lascia perdere. Sali Padania. Ancora Napolitano. Ma il signor Napolitano, se il mondo fosse giusto, dovrebbe essere in galera. Perché il signor Napolitano nel 1956 aveva detto che i russi erano legittimati a uccidere i patrioti. No, lui non li ha chiamati patrioti, ma i patrioti ungheresi. Uno del genere è diventato presidente della Repubblica italiana e io dovrei avere rispetto per una persona del genere, ma altro che denunciarlo, ragazzi, Padania libera. Poi finisce sempre con Padania libera, che non è più di attualità, poi no, cioè, è rimasto l'altro. Anche indietro, è rimasto anche indietro. Questo è nomi e cognomi di questi, ma forza, no, su. Ma lascia perdere, dai, che il presidente emerito della Repubblica Napolitano proceda, ma la gente ha pure il diritto di esprimersi a Radio Padania con mamma, no, ma è esposto denuncia, no, ma non dire, in quei termini lì non, ma può, non dire strozzate, dai, no, su. No, in quei termini lì uno non può secondo me in quei termini lì. Vecchio, ma che roba è? Parenzo e Cruciani, questo è contro di noi, senti. Vabbè, questo servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella. Ce l'hanno con noi, poi lo rimettiamo, poi lo rimettiamo. E devi sapere, David, che ieri sono sceso e ho incontrato due baldi giovani accompagnati da una signorina con i capelli rossi molto carina. Una ragazza molto carina, io guardavo solo lei in realtà. Poi in realtà si sono avvicinati due signori, uno si chiama Lorenzo e l'altro non mi ricordo come cazzo si chiama. Sì. Il quale dice: oh, siamo venuti da Roma apposta per la Zanzara. Io ho fatto: senti, amico mio, non mi racconta cazzate. Tu sei venuto a Roma per incontrare la signorina che non so come si chiama. Un tale Lorenzo. Io ho detto: senti, vieni domani e raccontami questa storia. Lorenzo, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ma ciao, non David. È vero, dai, ma non è vero. Dico, tu credi, ciao David, a tutte le cose più baldan, cioè tutto quello che ti dicono è la cosa più vera. In cioè, assoluto. Sei venuto a Roma apposta, tu ti devi rendere conto di ciò che hai creato. Questo per noi è l'unico spazio fisico e spirituale di libertà. Noi ci siamo rotti le palle e abbiamo detto andiamo. Ma come si chiama? È un pellegrinaggio, Cruciani. Come si chiama? Questo è un pellegrinaggio. Giovanni, quanti anni hai? 22. E tu quanti anni hai? 22. 22 anni. Cioè, ieri mi ha raccontato che ogni tanto ascoltava la Zanzara. Cioè, ma quando... dove dormite, scusa? Ma fatevi ospitare a casa di come si chiama la ragazza? La signora Carlotta. Carlotta con i capelli rossi. Ma in realtà siete venuti per lei, diciamo. No, cioè, tu sei venuto per lei. No, beh, allora sì, sono... Ma chi è sta Carlotta? Chi è sta gente? Persone normali, persone che vivono la vita. Carlotta, chi è? È una signorina che sta facendo adesso le riprese dietro col telefonino là. Una signorina che, insomma, voglio dire, ha il suo valore, David, diciamo. Che ci devi stare, cioè, se tu non ci vuoi stare, che c'è questa repressione che non lo vuoi ammettere, se questo, no, è uno spazio di... no, sì, se questo è uno spazio di libertà, sì, unico forse tra pochi, sì, E noi vogliamo arrivare qui. Sono venuti qua apposta siamo liberi, per fare una foto con me. Poi io li ho invitati, a venire oggi. Invitali a cena. Perché mi ha detto ti devo consegnare qualcosa. Spendi due lire, invitali a cena. Devo andare da una parte. Invitali a dormire a casa tua. Cioè, fai dei gesti. Che cosa mi hai portato? Invitali a cena. Allora, qua, questo qua diciamo è un attacco veramente carnivoro. Questo è un guanciale di amatrice. Non lo mangio. Questo lo puoi usare anche per difesa. Guanciale di amatrice. Guanciale di amatrice. Preso no, l'hai comprato tu? Che hai fatto? Ho comprato, no. Io diciamo che l'ho sottratto al mio conquilino che l'ha comprato. Ma sai perché? Perché gli stai sul cazzo. Gli stai sul cazzo, Cruciani. Scusa, dammi subito adesso il numero di telefono suo. Dammi il numero di telefono che lo chiamiamo. Aspetta, dammi il numero di telefono. Stai qua. Il guanciale adesso lo passo alla regia. Dammi massimo, fate voi. Dammi il numero di telefono della regia, ragazzi. Segnatevi questo numero, vi scrivo una mail. Vabbè, allora, che hai preso il guanciale dal frigorifero del tuo coinquilino. L'ha comprato lui? Ma lui lo sa o no? Questo non credo. Lo scoprirà sostituito con un secondo poi guanciale. Poi che mi hai portato, vedo un'altra cosa. Che e soprattutto questo, perché essendo, questa qua è Ode alla Zanzara, ovvero il nostro inno alla libertà, che è stato Lorenzo ispirato da voi. Ma perché voi che fate? Che fa? Noi siamo musicisti, noi siamo i Transmission. Ah, volete fare i musicisti, volete rimanere tutta la vita disoccupati? Esatto, esatto. Cioè avete deciso di rimanere consapevolmente tutta la vita disoccupati? Esatto. Cioè i Transmission siete. Noi vogliamo rimanere disoccupati. Ode alla Zanzara, mo' domani lo mettiamo, dai. Esatto. Vabbè ragazzi, chiamatemi questo qua, intanto andiamo a Maurizio da Roma, vai Maurizio. Maurizio, dimmi, capito? Ah, ciao Cruciani. Dimmi. Senti, io telefono per Parenzo, che mi ha fatto... Aspetta un attimo, come si chiama quel tuo conquilino? Francesco, chiamatemi sto Francesco. Allora? Maurizio, dimmi Francesco, dimmi. Sì. Allora, telefono prima per Parenzo. Non ti agitare. Ignorante, che ha fatto una pernacchia a quella persona che stava dicendo. Soltanto aspetta che... un secondo, Maurizio, un secondo, non ti arrabbiare, non ti agitare. Tanto per quello che dici, figurati. Sì. È utile quanto uno spazzolino usato. Comunque. Aspetta un attimo, devo chiamare sto Francesco. Maurizio da Roma, pensa a te. Aspetta, fammi chiamare sto Francesco, che abbiamo un guanciale di sua proprietà che è stato sottratto da Lorenzo. Coinquilino di Francesco, ascoltatore della Zanzara. Non risponde sto stronzo. Quasi. Ti abbiamo fregato il guanciale, amico mio. C'ho il guanciale. Il guanciale ce l'ho io. È un pezzo di guanciale. Maurizio, vai. Maurizio, dimmi che mi volevi dire. Allora, prima un telespettatore ha chiamato e stava dicendo proprio la verità sui rom. Cioè? Stava dicendo quello là che penso pure io, che andrebbero messi ai lavori forzati. Andrebbero messi. Sì, cioè, i lavori forzati che vuol dire? Perché le lavori forzati, diciamo, pulire strade, quello che sporcano devono ripulire. Cioè, secondo te andrebbero praticamente incarcerati? Se avete fatto il giochetto prima con quello là, poi gli ha passato Parenzo, gli ha dato la porta a Parenzo e gli ha fatto la pernacchia. Ma come si permette? No, veramente è tutto spontaneo. Come si permette Parenzo a fare la pernacchia lui? Ma che ne sa dei rom? Va dove vive lui? Conosco perfettamente perché ci vado spesso nei campi rom a raccontare. Ma dove vivi? Come no? Non ho mai visto né un campo rom. Ma non io non ho mai visto un campo rom. Questo lo dice lei e il suo parere, caro. Ma non ci vai mai nei campi rom. Sono stato un sacco di volte a fare servizi, a raccontare come vivono, chi sono, che fanno. Ma che andate a vedere? Mettete su Google Parenzo TV campi rom. Fermo, lo trovate. Allora, ancora parla. Sei andato nei campi rom? Ci abbiamo l'intellettuale. Ci abbiamo l'idiota invece adesso. Sì, no, ancora offendi. Io che sto offendendo. Ancora offendi. Certo. Ma l'idiota sei tese. Come l'ha iniziato lei a offendere? Ha messo in discussione. Ha messo in dubbio il fatto che io vada nei campi rom. Quella siccome ci sono andato tante volte. Ma l'hai offesa dandogli una pernacchia sulle cose che sta dicendo la verità. E come si può commentare diversamente uno che dice lavori forzati? Come si può commentare? Cosa devo argomentare? Ma rispetto a uno che parla di lavori forzati, come si può argomentare? Non c'è nulla da argomentare. Salame. Salame scaduto. Dove? Che campo rom? Ci sta una vallata piena di monnezza, di topi. Hanno costruito infatti vanno superati i campi rom, non c'è dubbio. Vengono qua a rubare. Infatti vanno chiusi. Ma che zona è? Che zona è? Infatti vanno chiusi. Che zona è, Maurizio? Palmiro Togliatti. Sono anni che guarda, a via Palmiro Togliatti è esattamente un posto dove sono stato qualche mese fa. Via Palmiro Togliatti. Che ne sa Parenzo? Guarda che Parenzo, la zona di via Palmiro Togliatti, in particolare un campo clandestino che c'è dietro la stazione. ci sarei andato una volta a fare un servizio dei treni, Palmiro Togliatti, c'è una stazione, lo sai perché non lo ci sono vedere. Stato perfettamente con le telecamere per fare un servizio e vai a vederlo, lo sai perché. Perché è nascosto? Perché? Perché? Dimmi perché. Perché l'hanno coperto, c'è cioè, una rete, ci hanno messo la rete, certo, quella blu dei lavori, e uno per siccome non ci stanno né palazzi né niente, che sta di fronte ai sfasci, uno ci deve passare là e questa. Vabbè, ma io non ho capito una cosa, qual è il problema? Secondo te ai Rom cosa va fatto? Cosa va fatto con i Rom? Dimmelo chiaramente. Io sto dicendo che ai Rom va fatto, io non sono un razzista. Beh, hai detto i lavori forzati, hai detto. Però chi sporca loro vanno chi sporca paga, giusto, ma hai detto capito? I lavori forzati prima chi hai detto. Sporca paga è giusto, sì, i lavori scopini, forzati perché loro sporcano E poi che? E chi sporca paga, chi è che è giusto? Roma, ma chi è che dietro sta Roma suggerendo, che c'è il suggeritore dietro, che c'hai? No, c'è stata la televisione. Vabbè, writers. Maurizio, ciao. Chi sporca ciao, paga. Vabbè, ciao Maurizio, ciao. Se va a dormire, ciao. Senti, ma mi dicevi ieri che è una cosa da dire a Parenzo, Lorenzo. Che devi dire? Io ho un sogno in realtà, perché a Parenzo io devo dire grazie. Grazie, perché grazie a tutta questa vibrazione di repressione, questa repressione che mi hai trasmesso mi ha portato a pensare una cosa. Tu ispiri in realtà pacatezza, Parenzo. Ispiri anche una qualche... cioè, pacatezza va bene, cioè, sì, certo. Ispiri, ispiri, l'impressione, cioè, no, la sensazione che ci siano dei paletti nella vita, sì, che ci sono dei paletti, che ci sono dei limiti, che ci sono dei limiti, certo, dei confini, cioè, esatto, sei sì, praticamente sì, l'emblema del bigottismo, sì, secondo me, l'emblema del perbenismo, dei paletti. Vabbè, Lorenzo, cosa gli vuoi dire? David, io tornavo a casa, pensavo a te, e mi è venuta in mente un'arte, diciamo, una forma d'arte che ho denominato Cunilingus subacqueo. Beh, molto bello questo. E lei, professore, è arrivato da Roma fino a Mediolanum, cioè Milano, per dire nella radio della Confindustria, che lui gli ha ispirato il Cunilingus subacqueo. Io le ho capito. Ma io ti vorrei consigliare al volo la tecnica, perché poi ci ma cosa significa? Sostanzialmente il Cunilingus subacqueo, esatto. Ma che vuol dire? Ma non ha senso il Cunilingus subacqueo. Ha senso, perché ma non ha senso. Ha senso, fammi dire, perché praticamente qual è il senso? Cosa lecchi lì? Fammi dire che cosa lecchi, perché innanzitutto cosa lecchi, tutto normale. Certo. Praticamente la tecnica si divide in tre fasi. Parenzo, si può fare anche per te, per persone come te, deboli di cuore. Ci si immerge sott'acqua con la compagna, non so se è Natale, insomma. Questo si fa i cazzi suoi. Si pratica la forma d'arte per 20 secondi, perché è tutta una cosa psicologica, Parenzo. Ma io non ho capito. Si riemerge, che succede? Aspetta. E poi si vede se si ha il consenso della partner, che se volete vi faccio parlare anche con lei, non c'è problema. Ci si rimerge per una seconda volta ed una terza, fino a che, Cruciani, posso dirlo qua, fino a che non è, diciamo, non è bagnata venuta, dell'acqua, ecco. E poi si può iniziare altre cose, posso iniziare. Ma questo simpatico maiale, che anziché stare in questo momento in un museo o alla Galleria Borghese, ci sono stato, ecco, viene a raccontare che lui pratica il Cunilingus subacqueo. La cosa che più mi stupisce è che lui è venuto da Roma per dire questa cosa. No, non è venuto da Roma per dire questo, è venuto a trovare la Zanzara. Io e il mio amico abbiamo fatto anche il liceo classico, Virgilio, abbiamo tutti gli studi, non capito? Capisci qual è il punto? È stata da me a fanculo, però. Ciao ragazzi, ciao Lorenzo, ciao. Fermi tutti, non rimanete lì, che fra poco il Conte Mascetti che torna alla Zanzara, ragazzi, dalla Spagna, il Conte Mascetti e il Viagra naturale. L'ho provato, Parenzo, funziona, cazzo. Ma siete due somari, andate a casa, andate a lavorare, barboni. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. La Zanzara. Ragazzi, a grande richiesta, grandissima richiesta da ieri. Parenzo, mi dispiace per te, ma è uno dei più gettonati oggi, Tipi da Zanzara, Carmine da Milano. Tipi da Zanzara. Carmine da Roma. Un po' mi dispiace. Dai, Carmine. Giuseppe, dimmi Giuseppe, siamo massacrati però con questa trasmissione. Parliamo un poco di pelo, un poco di figa, un poco di mignotte. Questo chi è? Un alunno di Zagrebelsky, questo professore? Io sera quando torno a lavorare, Giuseppe, c'è sì, io però, voglio... Chi è? Ho capito. Un alunno del professor Nicolfi, questo qui? Chi è questo qua? Però c'è un... È cresciuto alla scuola di Angelo Panebianco. Vabbè, ma ho capito, ma lasciala perdere. Io però posso dire una cosa a parente, non è che fa un moralista, cioè io lo voglio moralista. Bene, va ascolto da sempre, però dice che siamo animali, che siamo esseri ignobili. No, tu dice che sei, perché tu vai a puttane? Certo. Sempre fisso è normale, sempre una volta al mese, miserabile. Una volta al mese in Austria, una volta al mese. Certo. Normale. Cioè, qual è? Devo andare in chiesa? Devo andare a pregare? Ragazzi, questa è l'unica trasmissione al mondo in cui si fa passare per normale dicendo anche comportamenti che ovunque hanno un minimo di riprovazione sociale. Ovunque. Però se vi fa comodo così far passare me per un chirichetto, andate a fare in culo. No, ma non è normale quando uno va a Froci. Se vado a Froci, allora non sarei normale. Cresciuto alla scuola. Alla scuola. Ma quelle stanno lì che ti aspettano. Ma chi? Ma quelle prostitute? Le prostitute chiamano. Tutte chi? Quelle che stanno per strada, quelle che stanno... Lei ha una moglie, una fidanzata? Tu non ti preoccupare, la fidanzata. Io sono stato sposato, tu non ti preoccupare, se mi inviate. Questi sono dettagli. Benissimo. A volte Giuseppe passi sulla Laurentina, sulla Casillina, sulla Salaria, vedi ragazze bellissime. Sfruttate quelle sulla allora Salaria. Ma sfruttate questa minchia, ma sfruttate di chi? Ma mica ce l'ho messa io là. Ma che sta dicendo questo? E lui le usa. Vai. Allora che stai dicendo? Vedi ma io ragazza... li vedo, allora quando tu li vedi che cammini per lì, poi adesso con sto caldo si iniziano a mettere queste minigonne pazzesche. Vedi lì che quasi tu passi e ti chiamano, come di dire... fermati 5 minuti. Sì, ma non è che fermano te perché sei bello, perché ti schifano sono anche a te. Sono bello, non sono racchio come a te. Ma scusate, è normale, tu passi, loro ti chiamano, le vedi, belle, sicuramente saranno pure profumate, perché non è che stanno... Lo saprai se vai, se ci vai, no? Perché tu vai in Austria. È normale. Giuseppe, è il top. Dove, cos'è il top? Dimmi, cos'è? Andiamo, è il top. Poi c'è Welcome, che... L'andiamo, sì, locale che siamo andiamo, poi c'è il Welcome. L'andiamo, sì. Andiamo il Welcome. Sì, poi c'è Welcome, che barbiere, sta dentro, che è leggermente sotto, però... Di livello, dici? No. Sì, di livello. Ma andiamo insieme una volta, Carmine, andiamo insieme, organizziamo una cosa insieme. Ma quando te pare, Giuseppe? No, non c'è nessun problema. C'è chi va a vedere una mostra di Hayez e chi invece va, ovviamente. Tu vai a vedere le mostre. Chi va Carmine alla scuderia del Quirinale? Mi interessa le mostre, giusto? I quadri, Manzoni, Raffaello, Pirandello. Manzoni... Ma che mi interessa? No, Manzoni e Pirandello, però, non hanno esposto quadri. Non mi interessa. Non ma interessa, io ti sto dicendo, io ti faccio esempi, a me non mi interessa. A me che apre nei musei vaticani a Roma, è 20 anni che sto qui, non ci sono mai andato. Cioè a me andare a vedere macerie, un Colosseo, quattro muri, là. Le chiama macerie, Carmine. La gente arrivano là, le macchine fotografiche, tu vedi tutte la macchina fotografica. Ma che e invece è normale andare a Troia sulla Salaria. Vabbè, ma che fotografano? Tu devi sapere che io mattina mi sveglio agitato. Questo si capisce. Io tutte le mattine a 44 anni, la prima cosa che penso è a figa, perché è una cosa meravigliosa. Ma cosa pensa, professore? Scusi. In essere... Ma scusi, è un malato. Ma non sono malato. Perché deve essere malato? Ma scusa, amico mio, ma se pensa la mattina e la sera a quella roba lì, lascialo pensare, in tranquillità. Non è normale che lo dica così. Questo lo vuole riferire. Un culo così. Io lavoro 13 ore al giorno, non come a te che è un paraninchia. Io lavoro 13 ore al giorno, faccio 30.000 chilometri ogni 4 mesi. Quindi non mi rompere coglioni, io mi sveglio alle 6, non mi rompere coglioni. Ragione. Tipi da Zanzara. Allora ragazzi, abbiamo con noi il Conte Mascetti. Conte Mascetti, caro Davide, che c'è? Fatica, che cosa sbuffi? A risentirlo, che fatica ragazzi. Ciao Giuseppe. Massimo Fonti alias il Conte Mascetti. No, Mascetti ce n'è uno intanto per sì, me infatti che... se no si incazza poi cosa? Si incazza. No, lui, se uno si è voluto Conte chiamare Mascetti. Conte, tra l'altro è pure registrato sto marchio, certo, il Conte Mascetti. Ho registrato il marchio in tutta Europa, però rispettando... Non so se si possa fare, Si può fare. Tu devi sapere una cosa incredibile. Il Conte Mascetti ha da poco scoperto... È Ugo Tognazzi. No, allora, Conte Mascetti praticamente è uno che ha inventato anni fa il Viagra naturale, poi sono successi dei casini che abbiamo già raccontato, secondo lui c'è il grande complotto delle società multinazionali che l'hanno bloccato, in realtà secondo alcune analisi dentro questo Viagra naturale c'è del Cialis, c'è il componente del Cialis. Lo dicono ma non è vero. Ma no, sarà vero, non è che ti hanno bloccato, non è come esordi, ma bloccata la malattia. Non invece perché non mi hanno fatto fare la controprova che è obbligatoria. Vabbè, comunque questo Viagra naturale che mi ha gentilmente portato per l'ennesima volta, che si chiama, non so come si chiama, Erbe di Afrodite. E amico mio, funziona, che ti devo dire, io l'ho provato. Oh, ma che ti devo dire, guarda, ti posso assicurare, caro Parenzo, adesso non voglio fare Carmine da Roma, che non era da Milano, da Roma. ti posso regalare una pasticca, Davide, te la posso mandare a Roma? No, io però puoi mandarmela con tutta la gentilezza che vuoi, ma l'erbe ora... di Afrodite, prova l'erbe di Afrodite. Per ora voglio dirti che la mia industria funziona a pieno molto regime. Bene a pieno, bravo, a pieno però regime. Questo è un aiutino, senza... un aiutino che può servire anche nel caso in cui le cose io vadano bene tendenzialmente. No, ma provalo, una pasticchetta, non altero il mio status fisico. Io la pensavo così, ho provato questa roba qui e ti devo dire perché che, voglio che avere come dicono gli inglesi il total control, quindi non voglio avere non è che perdi il controllo Conte, no, io dico lei non aumenta le prestazioni ma il controllo c'è, anzi c'è ancora di più. Io non discuto con un signore adesso, signore che è sotto sorveglianza in Spagna, credo sei ancora sotto sorveglianza, ancora in libertà vigilata. Non posso discutere con un signore che è in libertà vigilata in Spagna, che si fa chiamare Conte Mascetti e che produce del Viagra che dice essere naturale per far alzare il pene. Mi rifiuto, ragazzi, mi rifiuto, ma non perché sono snob, perché è uno che si chiama Conte preferisci parlare con Fassina. Non preferisci parlare con Fassina, per esempio. Non ho detto questo, ovviamente. No, non è medico. Non è, vabbè, è che c'entra? È un signore che ha prodotto questa roba qua. Perché sei in libertà vigilata, Mascetti? Perché 15 mesi fa mi hanno arrestato perché hanno trovato del prodotto che non è il mio prodotto, che assomigliava all'hashish, ma non era hashish. C'è per traffico di droga. Esatto, un altro traffico. Ne avevo 400 chili. Devo parlare con un trafficante. Posso parlare con un trafficante. Sono arrivati i risultati delle analisi, finalmente 15 mesi mi hanno detto questo prodotto non è droga, ma non è illegale. Ma scusate, perché tu sei allora in libertà qui in Italia? Perché devono archiviare il caso, ci vorrà un mese, però sicuramente vai verso l'archiviazione, sicuro, no? Certamente. Non è che stiamo ospitando un trafficante di droga internazionale. Chiederò molti danni e metà della cifra la devolverò a un'associazione che... Vabbè, di beneficenza. Però voglio dire una cosa, caro Conte, siamo sicuri che poi non stiamo ospitando un trafficante di droga? No? Assolutamente. Cioè un criminale patentato, no? Che a noi non c'è nessun problema, Parenzo. Ma figuriamoci, non ho mai commesso crimini. Ragazzi miei, ma che vuoi? Allora, dimmi la verità. Allora, c'è una cosa che bisogna rivelare. Conte Mascetti ha ricevuto da poco la notizia, cioè hanno fatto l'analisi, che hai un cancro. Sì. 13 giorni fa ho scoperto di avere un cordoma, che è un tumore molto grave. Ma dove ce l'hai? Alla testa. Alla testa, al cervello? Sì, al cervello. È un tumore osseo del clivius, che è un osso che è più o meno sopra il palato. È molto raro. Cioè, quanti casi ci sono? È in Italia 30 casi all'anno. 30 casi all'anno? Ma le metastasi vanno ovunque? No. Cioè sono fortuna, molto... No, rimane localizzato in quella zona, però... devi fare un intervento, devi operare il cervello. Esattamente. Devo farmi operare. E sono stato stamattina dal neurochirurgo, dal primario del Besta, mi opererà fra 4-5 mesi perché non è molto grande, per fortuna me ne sono accorto per caso, infatti sto molto bene. Però va operato perché altrimenti potrebbe toccare... Ma t'hanno detto che ce la puoi fare oppure che sei spacciato? No, diciamo che probabilmente ce la fa. Se mi operano bene ce la faccio. Altrimenti la vita media è 6-7 anni. Capito, David? No, ti dispiace, non te frega un cazzo. Stai lì a distanza, non lo vedi, non te ne frega un cazzo. Ma ne conosco la voce, ne sento la voce. Certo. Mi dispiace come no, ma certo, ti dispiace come per tutti. Vabbè, ma insomma, mi sembra lucido, però il Conte. No, ma io l'ho presa bene. In fondo. Però, Conte, a chi le hai date queste pasticche? Di personaggi famosi? Perché io ti posso dire che funziona. Tutti ti dicono che funziona. Vabbè, ovviamente tu non potresti dire il contrario perché le vendi queste pasticche. Ma da quando tu la ingurgiti, diciamo, la mastichi, non ne ho idea. La è allunga. circa tre giorni dura tre giorni, no, ho capito, scusi, a me non mi è durato tre giorni l'effetto, però amico mio, no mi è durato insomma 15 ore se... no, effettivamente una volta mi è durato, cioè, per 15 ore stai con no, diciamo, no sì. Non è una roba, solo se sollecitati dalla situazione. Esatto. Ah, ho capito. Però, ma chi l'hai dati di personaggi famosi? Ma ad esempio una volta Giascavalli è venuto a stringermi la mano, Ronaldinho quando giocava nel Milan, poi prima ancora Ronaldo, quello che giocava nell'Inter. Ma di adesso, personaggi che ancora, beh, te la chiedono, chi c'è? Tutti i ragazzi di Radio 105. Vabbè, quello lo sappiamo, poi di Virgine, lo sappiamo. che posso dire? No, di personaggi famosi, dai, quella dai che ti dicono funziona, dammela continuamente. Beh, recentemente non l'ho più data, però l'ho data anche in passato a dei cantanti famosi. Tipo? Non avere anche paura. A Eros Ramazzotti. Ma mica gli hai dato qualcosa, mica gli hai dato la cocaina. Cioè... No, l'ho data a Eros Ramazzotti. Eros poi? E poi a chi? L'ho data a Masbiaggi. E che ti hanno detto? Che ti dicono? No, certo, funziona. Mi ha fatti i complimenti, certo. Perché capito, sei funzionato. Vabbè, Conte, che ti devo dire? Ti regalo queste cose, Davide. Te le mando a Roma, no, mi raccomando. Le erbe di Afrodite. Te le mando a Roma. Bene. Te le mando a Roma. Io non ne ho bisogno, per davvero. Bisogna, lo direi. Con l'alcol si può prendere, con l'alcol. Certo, l'effetto è un po' più lento. Dagliela a Mercù, Andro Mercù. Ma perché? Intero, ma perché io la vuoi dare? Che poverino Mercù, ho bisogno. Conte, tanti auguri, ciao. Grazie, Conte. Grazie a tutti. Ciao. Edoardo, provincia di Latina, vai. Edoardo. Ciao, buonasera ragazzi. Dimmi, Edoardo, dimmi. Tutto a posto, sono stato educato? Vai, Edoardo, dimmi, vai, dai. Ah, allora, guarda, io ho sentito un po' di trasmissioni fa che tu eri appassionato di poesie sulla cacca. No, non sono appassionato di poesie sulla cacca. È successo che qualcuno... Questa è quello che pensa ma la non gente. È vero, ma non è di vero. Di me pensano che sono un chirichetto, di te pensano che sei appassionato. Ma non sono appassionato a poesie sulla cacca. A questo tipo di epica, diciamo. Vabbè, comunque, dai, forza, Edoardo, dimmi. Questa poesia praticamente nasce da una storia vera. Ma perché tu adesso hai pronta una poesia sulla cacca? Ce n'ho una bella pronta, sì. E fammi sentire sta poesia sulla cacca, dai, forza. Chiudete gli occhi, perché qui si vede l'animo poetico. Dai, dimmi. Sto cagando e sto pensando. Sono veramente stanco. Qui, seduto sulla tazza mentre il culo si sollazza. A quest'ora della sera trovo strana la scaccata. Io la faccio di mattina a seguir la mia levata. Ma nel letto questa notte, prima che mi addormentassi, strani effetti all'intestino ho sentito avvicinarsi. Sarà stato il peperone o il gelato un po' gelato che hanno sciolto il malloppone nella panza accumulata. Prima un peto, poi una botta con esalazioni mortali mi hanno convinto a sollevarmi da correre ai ripari. È così che ora sono qui. Pronto per andare via, mi pulisco, tiro l'acqua e finisce la poesia. Capito? Pare che degna. Non degna, mi sembra particolarmente. Sì, particolarmente. No, mi pare anche ingegnosa, degna del miglior Carducci. Ottimo. Francesco da Macerata, vai. Ciao Edoardo. Francesco, vai, dimmi. Ciao, Cruciani. Vai, dimmi. Io sostengo la marcia per le mignotte. Ottimo, sì. Grande marcia dei puttanieri. E in realtà volevo chiamarla la marcia dei peccatori, però molti mi hanno detto no, marcia dei puttanieri. Proprio, dai, è la proprio questo il punto, che assomiglia troppo alla Chiesa, capito? Il sì, peccato, peccatori, bravo. La Chiesa cattolica. Marcia dei puttanieri, la marcia dei puttanieri. Guarda. A petto in fuori, qua con un cartello. Recanati. Vado a puttane, qua, e me ne vanto. A Porto Recanati. No, non dico io, in generale dovrebbe essere così organizzata questa marcia. A Porto Recanati che succede? Hanno fatto tipo la passeggiata per la famiglia, una cosa proprio tristissima che non ci ha dato perché nessuno, tristissima passeggiata, adesso ognuno può fare il cazzo che vuole, passeggiata per la famiglia adesso sì no perché era contro le mignotte che stanno verso la pineta che tra l'altro so dei cessi perché c'è delle negre. Vabbè, ho capito, però lì la questione le negre, cioè, no, delle negre, ragazzi, che cazzo, ma no. Negre, a che cosa arriveremo? A cosa arriveremo? 5 euro ti dico basta. Vabbè, capito, amico mio, che c'entrano adesso le negre? Anche non i prezzi, no. Sì, cioè, sicuramente bellissime, ma quelle vabbè, che. Ma insomma, anche lì... voi fare? Vuoi partecipare a sta marcia dei puttanieri? Io voglio partecipare alla marcia, guarda. Raccoglieremo le cose. Devo salutare Giorgio Montanini che ci stava ascoltando. Ciao, Giorgio, a presto. Ciao, amico mio. Ciao. Allora, ragazzi, ci sentiamo domani alle 18:30. Ciao. Zanzarosi, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.